Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Nanneddu Titule era dominato da un'idea fissa: vincere la propria miseria. Era stato servo di un padrone in un paese in cui i padroni erano più poveri dei servi. 100 lire e un paio di scarpe all'anno per badare a un branco di capre. E se egli riusciva a vivere quasi senza mangiare, con 2 sfoglie di pane intinte nell'olio, la moglie e i figli dovevano aspettare la carità dei vicini, se non volevano morire di fame. Quando quell'amico di Don Sebastiano gli propose di andare a Nuoro a fare il mezzadro, gli parve che finalmente il Signore si curasse di lui. Arrivarono come zingari, e quando zio Poddanzu, che sovraintendeva le campagne di Don Sebastiano, sebbene la sua sede fosse Locoi, se li vide davanti, sconsigliò il padrone dal caricarsi di quella legna verde. Ma Don Sebastiano, che aveva un fondo di umanità, li accolse, li insediò a Isporosile, li soccorse con un anticipo di denaro. La terra. Finalmente la terra, quella campagna attraversata dal torrente, coi suoi immani macigni abbandonati dalle piene, aveva non uno, ma 2 orti, alimentati dal canale che Don Sebastiano aveva derivato. Al primo colpo di zappa la sentì sua. Certo, il raccolto sarebbe andato per la metà al padrone, come era giusto, poiché egli pagava le imposte, ma intanto le piante che sarebbero venute su sarebbero state anche sue. I pomodori, i peperoni, le lattughe dell'orto, per non parlare degli ulivi, del grano, dei mandorli. La vigna no, perché Don Sebastiano, gelosissimo del suo vino, non aveva mai concesso le vigne a metà. Invasato da questa idea, lavorava come un folle, si privava di tutto, costringeva la moglie e il figlio, che era poco meno che un ragazzo, alle più dure fatiche. Si alzava di notte per sentire crescere le erbe che aveva seminate di giorno. I mezzadri vicini non vedevano di buon occhio questo forestiero cupo che si era preso il miglior chiuso della contrada e ne facevano una colpa a Don Sebastiano. Il rapporto dei contadini nuoresi con la terra, parlo dei contadini, non dei pastori, è un rapporto amichevole. Quando zappano è come se li facessero il solletico, e poi essi sanno che la terra ha le sue ore di riposo e di sonno, e perciò quando la canicola è in furia se ne stanno sotto il fico, dove convengono da tutti i poderi vicini. Riprendono quando il sole comincia a risalire tra le grandi ombre la valle. Poi, alle prime stelle, raccolgono i frutti che la terra ha maturato, ed è come se le chiedano il consenso. Quel maledetto straniero era come se maneggiasse il picco in luogo della zappa. Ogni colpo una ferita. Dove voleva arrivare? Avevano in un primo tempo cercato di avvicinarlo, perché in campagna l'uno non può vivere senza l'altro, ma un po' per il diverso linguaggio e molto per la diffidenza del miserabile, Nanneddu rifiutò ogni contatto. Dopo 1 anno egli aveva il conto attivo presso Don Sebastiano, nel senso che aveva pagato il debito iniziale ed era creditore di 1000 lire. Ancora un poco e quella vita di stenti sarebbe finita. Se ne sarebbe tornato al suo paese, dove si sarebbe costruito una casetta con le sue mani. Al resto Dio avrebbe provveduto. E infatti Dio provvide, mandando prima quel vento africano che egli era riuscito a vincere con la magia, poi una siccità quale non si era mai vista. Pareva che quel vento avesse levigato il cielo in modo tale che le nuvole non potessero più posarsi. A Isporosile l'acqua non era mai mancata, per via dei canali costruiti da Don Sebastiano, e invece quell'anno cominciò a mancare. Per un po' di tempo, lavorando nel cuore della notte, Nanneddu riuscì a catturare un rivoletto che bastava per 4 o 5 riquadri. Verso 6 esso si contraeva, si accorciava, moriva del tutto. Sotto il cielo di metallo, i pomodori piegavano tristemente la testa sui solchi, le lattughe si sfacevano, la terra impietrava. Verso luglio il rivoletto scomparve del tutto e fu la fine. Egli sapeva, da dove veniva quella sciagura. Nel podere di Sporosile, a memoria d'uomo, l'acqua non era mai mancata. Questo era il suo pregio, che lo rendeva eccellente su tutti gli altri. Ma non si trattava del demonio, come per quel vento. L'acqua del podere veniva dal torrentello che attraversava il chiuso di Pascale Martis. Questi, e si intende Merriolu, il suo mezzadro, aveva diritto di servirsene per il suo orto, ma poi doveva lasciarla scorrere, perché tale era la legge e l'uso. Invece, egli, spiando nella notte, aveva da tempo osservato che Merriolu aveva praticato alcune fosse nelle quali l'acqua si raccoglieva goccia a goccia, formando dei piccoli depositi che gli servivano per altri usi. Sarà stato vero? Sarà stata allucinazione? Più volte aveva urlato a Merriolu che lasciasse correre l'acqua e quello gli aveva risposto che in casa sua faceva quello che voleva. L'aveva detto a Don Sebastiano e avete sentito come gli aveva risposto. Intanto l'orto moriva e con l'orto morivano le sue speranze. Se ne stava immobile per ore e ore. Nella spaventevole arsura anche il giogo sarebbe morto se il figlio non lo avesse portato all'abbeveratoio del paese dove ancora filtrava qualche goccia. Ma che importava del giogo? Aveva dovuto chiedere soldi a Don Sebastiano per sfamare sé e la famiglia e il suo capitale si era quasi esaurito. Dimagriva, non dormiva più. Eppure l'acqua era lì, di là dalla siepe. Bastava distruggere quei pozzetti. Bastava distruggere. Nella notte si alzò dal giaciglio sotto il portico, chiamò a voce bassa suo figlio. «Alzati», disse, «vieni con me». Afferrò la scure, si avviarono verso il podere del vicino. Scavalcarono accortamente la siepe. Non si udì l'appello di un cane, forse anche le bestie erano morte o sfinite dalla sete. Lentamente si avvicinarono alla casupola. La porta era aperta e al chiarore delle stelle si vedeva Merriolu disteso sulla stuoia, immerso nel sonno. Guardò il figlio, passò la soglia. Come Merriolu accennò a un lieve movimento, gli scaricò la scure sulla testa. «Arrangiatevi tra di voi», aveva detto Don Sebastiano. Se in quel momento i cieli si fossero aperti e l'acqua fosse caduta a torrenti, il suo gesto sarebbe stato utile, come quello del cane crocifisso. Ma i cieli rimasero impenetrabili. Si trattava di far sparire il cadavere prima dell'alba, lo afferrarono in due cercando di non insanguinarsi e con lui fecero il viaggio di ritorno. Lo posarono su un riquadro dell'orto, poi, lavorando tutta la notte, lo seppellirono e spianarono accuratamente la terra. Alle prime luci del giorno aggiogarono il carro, perché bisognava portare all'aia di zio Luca, appena fuori Nuoro, il grano che doveva essere trebbiato. Scoprire il delitto fu per la polizia un gioco da bambini. Nanneddu e il figlio passarono incatenati per le vie di Nuoro, tra le urla ostili della folla. Merriolu era un buon uomo che non aveva mai fatto male a una mosca e i due assassini erano forestieri. Per giunta si scoprì che i pozzetti d'acqua non erano mai esistiti, quindi il delitto non aveva neppure un'ombra di giustificazione. Chiuso nella sua stanza, Don Ricciotti Bellisai ascoltava le voci che gli giungevano dalla strada e le passava una per una al filtro della sua coscienza. Egli era ormai un uomo finito, perché gli si era attaccato un cancro che lo rodeva sia pure lentamente. Dopo la rovina politica non gli restava più nessuna speranza. Trascorreva le sue lunghe ore mandando notiziole a un giornale di Roma, che in quel tempo aveva iniziato a stampare una speciale edizione per la Sardegna e lo aveva, chissà per quale presentazione, nominato corrispondente da Nuoro. Doveva rompersi la testa per trovare qualcosa da dire in un paese dove non accadeva mai niente. Era in questo triste stato d'animo quando gli arrivò la notizia di Nanneddu e di Merriolu. Di colpo ringiovanì di 20 anni. Il destino, dopo tante illusioni e tante sconfitte, di nuovo, e proprio mentre lo condannava a una morte atroce, gli metteva a portata di mano Loreneddu, o almeno la sua vendetta, che ormai valeva più della stessa casa. Si alzò dal letto, si lisciò la barba incolta e si avviò al tavolino. Nuoro 20 giugno 1900. Un gravissimo fatto di sangue è accaduto stanotte. Certo Nanneddu, detto Titule, mezzadro del ricco proprietario Don Sebastiano Sanna Carboni, ha ammazzato con un colpo di scure il mezzadro del predio confinante, in regione Isporosile, certo Merriolu. Particolare raccapricciante, l'assassino si è fatto aiutare dal suo figliolo quindicenne, col quale ha trasportato il cadavere e lo ha seppellito nell'orto del detto Don Sebastiano, dove è stato recuperato dalla polizia. La ragione è da ricercarsi nella penuria d'acqua dovuta alla perdurante siccità. L'assassino si era messo in mente che il Merriolu ostacolasse il normale deflusso del torrente che attraversa i due poderi. Non è dato sapere se il fatto fosse vero. Fin qui la cronaca. È però voce comune in città che il detto Titule, uomo della estrema barbagia, sia un minus habens che da solo non avrebbe neppure potuto concepire un così atroce disegno. D'altra parte, l'interesse all'acqua non era suo, se non di riflesso. Si pensa dunque che egli abbia agito per mandato. Sempre secondo la voce pubblica, il mandante dovrebbe essere ricercato nel proprietario del podere, il soprannominato Don Sebastiano Sanna, uomo estremamente geloso dei suoi beni. La polizia mantiene il più stretto riserbo, trattandosi di persona, oltre che facoltosa, molto potente. Chiuse la lettera con un sogghigno, si avvicinò allo specchio e contemplò il volto emaciato. «Ti preparo il mio testamento, Don Sebastiano». Poi tornò a letto e attese gli eventi. La notizia fu letta al caffè Tettamanzi e fu accolta a sghignazzate. Per quanto i tempi fossero cambiati, Don Sebastiano era ancora rispettato da tutti e poi non si era spento il ricordo delle smargiassate di Ricciotti. In farmacia esortavano Don Sebastiano a querelare Ricciotti, ma Ludovico aveva detto che non conveniva far nulla. Era probabile che Ricciotti, sapendosi vicino a morire, cercasse proprio il clamore intorno al suo nome. Così passò una settimana e poi apparve un altro articoletto. Nuoro, 27 giugno 1900. La vicenda dell'assassinio di Merriolu diventa sempre più fosca. L'impressione di cui abbiamo riferito nella precedente corrispondenza, che il mezzadro assassino non fosse che il sicario di un ben noto mandante, acquista sempre più credito. I punti oscuri sono infiniti, ma c'è un dato che appare inconfutabile, ed è che Nanneddu Titule fu mandato il giorno stesso dell'assassinio a trebbiare il grano del podere a un'aia distante almeno 5 chilometri, quella di certo zio Lucca. Quale può essere stato il motivo di questo fatto? È contro ogni ragione che la trebbia avvenga fuori del podere dove è avvenuta la mietitura. Ma la magistratura, che sta conducendo le indagini, è sulla buona strada. Appare infatti chiaro che la strana disposizione non può essere stata data che per costruire un alibi al mezzadro e quindi distogliere i sospetti dal padrone. La giustizia è sulla buona strada. Intanto sarà bene che il sicario e il mandante siano accomunati nel carcere preventivo, anche per evitare manipolazioni della verità. Quello stupido del redattore del giornale romano, che non conosceva Don Sebastiano, altrimenti se ne sarebbe ben guardato, aveva stampato la corrispondenza sotto due titoloni di scatola. Nonostante l'atroce calura, Nuoro fu come percossa da un brivido. La fiducia cominciò a vacillare. Il fatto dell'aia appariva davvero inspiegabile. E perché poi no? Don Sebastiano sentì nei suoi rapporti con gli altri un lieve senso di disagio, ma il più agitato di tutti fu il procuratore del re, che era amico e ammiratore di Don Sebastiano, ma non poteva ignorare l'accusa. Non si era mosso prima perché non c'era che la calunniosa maldicenza di un degenerato come Ricciotti. Ora questa faccenda del grano era almeno un indizio, qualche cosa che lo costringeva ad agire, sia pure con la dovuta prudenza. Il pover'uomo, che era ligio al suo dovere, pregò Don Sebastiano di recarsi nel suo ufficio. Fu un colpo terribile. Egli non aveva mai avuto a che fare con la giustizia, sebbene tutta la vita avesse riempito fogli di carta bollata. Uscì di casa presto, salì l'erta che conduceva al tribunale e gli parve che gli sguardi di tutti lo seguissero. Il procuratore lo accolse nel suo antro polveroso, e gli parve triste e freddo. Voleva sapere di questa storia del grano. Tutto il resto non gli interessava. Don Sebastiano lo guardò imbambolato, balbettò qualche frase sconnessa. Non so, come non sa? Ma è lei il padrone o non è lei? Ma capisce in che situazione mi mette? Gli parve che Don Sebastiano stesse per mancare e allora cambiò tono e gli suggerì le risposte. Forse c'è qualcuno che si occupa delle sue terre che può sapere. Mi sa dire chi è? Come sollevato da un incubo rispose: il mio fattore è Giuseppe Chisu, detto Poddanzu. Va bene, chiamerò lui. Ora se ne vada e si tenga a disposizione. Zio Poddanzu era a Locoi quando ricevette l'invito a presentarsi al procuratore. Si vestì del costume buono e salì anche lui la lunga erta che qualche volta aveva percorso per andare alla chiesa, che era di fronte al tribunale. Si era ravviata anche la barba. Fu fatto entrare subito e si trovò di fronte il giudice, che non alzò neppure gli occhi dal tavolo. «Allora», disse con voce che gli parve minacciosa, «voi sapete perché la mattina del giorno tale il grano fu portato da questo maledetto Nanneddu alla Trebbia, lontano da Isporosile?» «Non capisco», rispose zio Poddanzu. «Tutti gli anni si è fatto così, perché a Isporosile non c'è aia». Il procuratore del re balzò in piedi. «Che dite? Tutti gli anni? Non c'è aia?» «Sì, sempre». Il procuratore era trasfigurato. «Datemi la mano, buon uomo. Ma perché quel disgraziato non l'aveva detto? Una cosa così semplice, datemi la mano». E la mano callosa strinse quella sottile abituata a firmare mandati di cattura. «Andate, eccovi mezzo sigaro per l'incomodo e salutatemi il vostro padrone». Così, per la seconda volta, e fu l'ultima, zio Poddanzu aveva salvato Don Sebastiano. La fuga che non era riuscita alla cugina Gonaria era riuscita a Donna Vincenza, sempre più inchiodata dall'artrite nel seggiolone sotto la pergola. Ma Gonaria era spinta dall'amore, Donna Vincenza era spinta dall'odio. Quella indifferenza verso il marito di cui abbiamo parlato era diventata un'assenza. Ormai non lo vedeva più, neppure come quell'ombra che i suoi spenti occhi le consentivano. Non lo sentiva più. Tornava alla vita soltanto nei rari periodi in cui il piccolo che lei amava, anche se aveva respinto il suo viatico, rientrava per le vacanze e si abbarbicava a lei, piangendo per il suo stato. Poi egli ripartiva e non dava più notizie di sé. Lei, una volta, dopo una sua gioiosa apparizione, vinta dallo sconforto e dal tedio, aveva preso una cartolina e gli aveva scritto così come aveva potuto: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma non ebbe risposta. La diaspora dei figli si era praticamente conclusa con questo piccolo, anche se per ora seguiva gli studi. Ma certamente non sarebbe tornato, perché anche lui avrebbe cercato pane migliore di quello di grano. Del resto, non faceva nulla per trattenerlo. Se non lo fermavano le sue piaghe, come potevano indurlo le sue preghiere? Si rendeva conto che egli seguiva il suo destino, come l'uccello che vola dal nido, e anche lei aveva seguito il suo destino, sebbene questo non scagionasse Don Sebastiano, che ne era stato il cieco strumento. Sapeva che fra poco si sarebbe concluso, perché una donna nelle sue condizioni non poteva vivere più che tanto, e tutto sarebbe come se non fosse mai nata. Sarebbe bello se fosse stato così. Ma un oscuro sentimento l'avvertiva che non sarebbe stato tanto semplice. Dopo la sua carne sarebbero rimasti i dolori, la sua vita di dolore, che nessun Dio può fare che non sia stata. Per questo la Chiesa continua a dire da secoli requiescant in pace, parole senza senso se i morti sono morti. Qualche tempo prima le era accaduto un fatto che non poteva dimenticare. Dormiva profondamente nel suo letto alto all'ultimo piano quando fu svegliata nel buio da un singhiozzo ritmico che pareva venire dalla cima del guardaroba che custodiva le sue povere cose. Era come una parola che non riuscisse ad aprirsi il varco per la gola strozzata, madida di sudore, stette a lungo in ascolto. Le venne in mente quel grande cugino suo, Edigonaria, che era stato un formidabile oratore e una paralisi lo aveva colpito proprio alla lingua. Forse era venuto per dirle qualcosa e non poteva. Brancolando nel buio, era andata nella stanza contigua dove dormiva Sebastiano e lo aveva svegliato. «Senti, ascolta». Il ragazzo era tornato di colpo alla vita. Stettero poi insieme a farsi coraggio. Poi egli si era alzato e aveva acceso la luce nella stanza della madre. Due colombe, candide come la neve, erano entrate la sera per la finestra e si erano posate là e tubavano dolcemente. Come spalancò i vetri, quelle presero il volo verso la luna. Sebastiano ripiombò nel suo sonno, ma nella stanza della madre rimase come una traccia di magia, l'angoscia di una presenza spirituale e quella voce mozza che l'accompagnò nel resto della vita come un presagio. Ma forse questi erano farneticamenti, come quelli della cugina Gonaria. Cosa può pensare una donna abbandonata su un seggiolone con solo il suo passato davanti? Perché la diaspora non era solo quella dei figli che se n'erano andati per il mondo. Anche quelli che erano rimasti, volenti o nolenti, non c'erano più. Giovanni, che inseguiva cupamente il denaro, Pasquale, avvolto nei traffici con le mandorle e gli altri prodotti dell'isola, entrambi fatti lontani dalla propria vita, avevano introdotto a forza nella vita della madre donne e figli che essa rigettava come corpi estranei. Non si può amare se non si è stati amati. E poi c'era Ludovico. Parlavo di lui, se mal non ricordo, quando Gonaria, sopraggiunta, mi scongiurò di aiutarla a liberarsi della propria vita. Ed io l'ho seguita fino al giorno in cui tentò la fuga. Così tutto è rimasto indietro, gli eventi si sono accavallati e per giunta io ho sofferto tanto che per alcuni mesi non ho potuto accostarmi a queste pagine. Dicevo che Ludovico aveva aperto studio di avvocato. Non era stata una decisione improvvisa, anzi nemmeno una decisione. Nella programmazione che egli faceva della sua vita, la decisione non poteva trovar posto perché essa, come tutte le azioni, comporta sempre un elemento di irrazionalità. E ciò era incompatibile con l'umanità che si era costruito ed era concresciuta con lui. Se avesse deciso di aprire studio, che differenza ci sarebbe stata fra lui e quei baldanzosi giovani dei paesi che salivano a Nuoro per conquistare il tribunale e le donne? Ma non era solo questo. Era che egli aveva derivato da chissà quali avi, o forse soltanto dall'osservazione della sua incerta salute, un senso magico delle cose, per cui ogni atto era un rito, ogni parola l'eco di un'altra parola, ogni fatto un mistero. E non si può dire che non avesse ragione. Il nascere, ad esempio, del pensiero dalla profondità dello spirito, il formarsi e l'ordinarsi in periodi, il tradursi in segni e soprattutto il trasferirsi da uno spirito all'altro, la comunicazione, che è, sia pure per un attimo, l'incontro di due esseri con le imprevedibili conseguenze che sempre questo incontro determina, è effettivamente un miracolo, solo che se uno si ferma a contemplarlo non riesce a scrivere una lettera. E infatti le lettere che scriveva Ludovico parevano provenire da queste infinite lontananze, come messaggi lanciati in una bottiglia. E ciò si rifletteva nello stile che si svolgeva in arcaiche evoluzioni, quasi timoroso di affrontare la ragione dello scrivere, per banale che fosse, nella studiosità dei convenevoli. E improntava perfino la scrittura che si era costruita fitta e sottile, con una regolarità da ideogramma, senza la più piccola concessione alla fantasia, quindi senza pentimenti e cancellature.